made of music, ready for your ruin. American fantasy. She's wind into the rhythm, altering your vision. Say you never felt so free. Anzi, 19 novembre del 2025 inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi. Uno spazio che andrà avanti sino alle 22:30, allorché poi ci sarà 25 o'clock, almeno credo. Il sito internet di Radio Onda Rossa è www.ondarossa.info. Ci sono le notizie e le varie modalità di adesione per quanto riguarda la nostra esigenza di sopravvivenza, e quindi è sempre urgente la sottoscrizione per quanto riguarda chi ascolta queste frequenze. Vado a salutare Lisa De Iuri a Trieste, Ernesto Brusati a Varese, Maia in Umbria, un saluto a Massimo a Torino, Sara Boi a Berlino, Marco Magier di Progetto Sonoro in Sardegna, Anna qui a Roma. Saluto Lucia Cagliazza, Lupsi, Arianna Digni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster. Un abbraccio a Tiziano Zeno Farinacci di Pi Greco. L'abbiamo salutata qualche istante fa. Torniamo a Lupsi con Lupsi & Pets, uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni, ad appannaggio di Lucia Cagliazza. Chitarra trattata, reverberata, che crea e disegna delle atmosfere tra l'onirico e l'industriale, ormai al suo attivo svariati album. Andiamo a concludere i nostri passaggi di questo suo ultimo lavoro con Warm Rain in the Garden e On the Threshold on the Invisible. Don't forget. una delle novità più eccitanti degli ultimi anni, questo progetto dal nome Lupsi di Lucia Cagliazza. È interessante l'uso della chitarra riverberata, trattata, che crea e disegna delle atmosfere così oniriche. Scenari appunto sognanti, ma anche siderali, al confine col kraut rock di Teutonica Memoria. Atmosfere che non a caso vedono anche in sede di Cura del Suono di Raffaele Pezzella. Warm Rain in the Garden e On the Threshold of the Invisible, le due belle tracce per questa sera. Un grosso saluto dunque a Lucia Cagliazza e chiaramente staremo qui ad aspettare le news della sua carriera, costellata di tanti ottimi dischi rintracciabili sulla sua piattaforma Bandcamp. Saluto Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Jean-Claude Oberto in Val d'Aosta. Like a Wake, la Dark Ambient qui a Roma. Miriam Piera Genovese in Molise. Si rimane nel nord Italia, andiamo a Milano da Anticatecon di Davide Del Col. Anche lui si è andato a vedere Bandcamp, parecchi lavori al suo attivo, ma noi andremo ad analizzare la sua ultima uscita proprio di quest'anno, che porta il nome di Echoes from the Aureth Heavens. Più votato all'industrial death ambient. Lunghe tracce compongono questo lavoro, ben 5, e ci ascolteremo Die Offenbarung Maschine, in tedesco dunque, Anticatecon. indubbiamente dark ambient, ma estremamente solenne e potente a suo modo. Come giustamente ci dice Miriam, vibrazioni che ci permettono di espandere la nostra percezione, non solo. C'è qualcosa anche di spirituale nell'opera di Anticatechon. Questo Echoes from the Ored Heavens. Una prima parte di prove tecniche di trasmissione dove ci saranno artisti italiani, e continuiamo anche a proposito di spiritualità andandoci ad ascoltare la nuova uscita di Gianluca Becuzzi dal nome Merkian Requiem. Becuzzi è stato sempre appassionato di spiritualità, ma in senso pagano se non laico, andando poi a assaggiare e a visitare le varie culture sparse per il mondo. E questa volta si parla del rapporto anche tra spiritualità e decadenza dell'impero americano. Spiritualità perché sono presenti anche dei campionamenti estratti da vecchi gospel tipici della propria cultura musicale e anche religiosa americana. Un'analisi dunque musicale sullo stato appunto di decadenza di quella parte del pianeta. Il primo CD si apre con Oh That, parte 1. Well, what is this that I can't see? With eyes cold hands taking hold of me. Well, I'm this uncanny self. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day? The children prayed, the preacher preached, time and mercy is out of your reach. I'll fix your feet till you can't walk, I'll lock your jaw till you can't talk. I'll close your eyes so you can't see this very hour come and go with me. Death, I come to take the soul, leave the body and leave it cold. To drop the flesh off of the frame, the earth and worm both have a claim. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over to another? To my bed, placed a cold towel upon my head. My head is warm, my feet are cold. Death is moving upon my soul. Oh, death, how you're treating me? You're closed my eyes so I can't see. Well, you're hurting my body. You make me cold, you run my life right out of my soul. Oh, death, please consider my age. Please don't take me at this stage. My wealth is all at your command, if you will move your icy hand. Oh, the young, the rich are. Another year. Indubbiamente ci siamo inoltrati in territori doom metal. Una concezione particolare del doom metal proprio di Gianluca Becuzzi, che da anni ormai stiamo apprezzando. Qui suona tutto lui, la chitarra, il basso e il sampling, il programming. L'album contiene campioni di vecchi predicatori, da qui i Gospel e poi Alan Lomax, Primitive Folks, Nimrod Workman, Ralph Stanley sono campionati, sono presenti in questo doppio CD dal nome American Requiem. Si è aperto con Odette, parte 1. Saluto Mariano qui a Roma. Doriana Panico in quel di Taranto. E una buonasera va anche a Paolo Contucci dal settore Roma Est, qui a Roma per l'appunto. Mentre noi rimaniamo sempre in Italia, andiamo dalle eretiche elettriche divisioni, una interessantissima ed emergente realtà anche editoriale, oltre che discografica. Dietro la quale c'è Eresia Rex, ebbene hanno ristampato Sucker di Geilstein dopo più di 30 anni, una versione estesa e rimasterizzata, elettronica e dark wave sono le caratteristiche principali di questo interessantissimo lavoro. E quindi è partita The Heart of Sorrow and Invisible Joy, Light and Eternal Flame, e poi A Fly in My High. Thank you. Vado anche a salutare Ernesto Duck, Phoenix Galli e Giuliana DJ Banshee. Ed è partita la prima bonus track di Sucker per quanto riguarda Gerstein. E questa è Fly in My Eye. Ed è da registrare un'estrema varietà di proposte sonore in questo Sucker di Gerstein di Maurizio Pustianaz. Momenti di pianismo crepuscolare, un po' la Tuxedo Moon, come rimane quel riferimento anche nei frangenti, negli episodi più strettamente electrowave. In origine uscì ormai nel lontano 1993, è stato ripreso e sviluppato in maniera opportuna dalle eretiche elettriche divisioni di Heresia Rex. Per averlo fisicamente questo album si può contattare sia Pustianaz sia Heresia Rex. E non ci siamo dimenticati dei Coil, infatti il 13 novembre del 2004 moriva John Balance, diciamo un incidente domestico. E ironia della sorte, sempre di novembre, ma 6 anni dopo, moriva anche Peter Christofferson in Thailandia. E quindi ogni anno andiamo un po' ad omaggiare i Coil, questa meravigliosa avventura sonica che tanto ha influito poi generazioni e generazioni di musicisti. Ho deciso di sentire tre estratti da Love's Secret Domain del 1991, ossia Disco Hospital, Titan Arc con ospite Mark Almond e anche Caostrophe. Faced into nature.